163. Fritto di ricotta. Ricotta grammi 200, farina grammi 40, uova numero 2, zucchero 2 cucchiaini scarsi, odore di scorza di limone, sale un pizzico e 2 cucchiaiate d'acquavite. Ogni qualità di ricotta è buona, purché non abbia preso il forte, ma adoperando quelle di Roma e di Maremma, che sono eccellenti, sarete sicuri di farvene onore. Lasciate il composto in riposo per parecchie ore prima di friggerlo. Con le dosi suddette, il composto riescirà sodettino e questo è bene onde il fritto prenda la forma di bombe della grandezza di una noce all'incirca. Spolverizzatele di zucchero a velo e servitele calde per contorno a un fritto di carne. Dello zucchero dentro, come vedete, ce ne va poco, perché esso brucia e il fritto non prenderebbe allora un bel giallo dorato. Per dare a queste simili bombe la forma possibilmente rotonda, va preso su il composto con un cucchiaio unto col liquido bollente della padella, dandogli la forma con l'estremità di un coltello da tavola, intinto esso pure nell'unto medesimo.